Musica. Benvenuti, benvenuti al salotto porno e nerd della Tinka. Stasera chiacchiereremo con due persone, l'ideatore e curatore della mostra Sex and Pop, inaugurata il 14 febbraio 2020 e stroncata dal lockdown. Dopodiché chiacchiereremo con mia sorella e scoprirete poi perché, e concluderemo in bellezza con un racconto erotico della Micia. E quindi benvenuti a questa quinta puntata del salotto. Ah, ciao Pier Giorgio. Ciao, ciao. Ben trovato. Come stai? Grazie a voi, grazie a voi. Come stai? Abbiamo quasi terminato di smantellare la mostra, quindi con una tristezza nel cuore, purtroppo. E adesso domani abbiamo le ultime incombenze, dove stiamo impacchettando tutto e lo stiamo restituendo ai proprietari, ai prestatori e ai proprietari. Questa è la quinta puntata del Salotto della Tinka, salotto porno nerd. Oggi si parla di qualcosa che secondo me sarà da nerd in futuro, perché è, come dire, qualcosa che è successo in un momento storico particolare, momento Covid. Parliamo con Pier Giorgio Carizzoni dell'associazione Dioniso, giusto? Esatto, proprio così. Curatore, ma credo anche ideatore. Sì. Finanziatore. Purtroppo della mostra Sex XXX, quindi Sex è scritto con 3X, è commerciale Pop, che è stata inaugurata alla Fabbrica del Vapore a San Valentino 2020. Un'epoca fa ormai, sembra lontanissimo, è vero. Cos'è successo? Noi eravamo lì, stavamo facendo la nostra inaugurazione la sera di San Valentino, giusto? Sì. C'era un buffet sexy, erotico. C'era molto, molto, ti ricordi con questi semi giganteschi di carne in cui affondare le mani, ti ricordi? Sì, mi ricordo, era una carne morbidissima come le tette di una signora. Esatto, ecco, sì. molto saporita. Servita con le mani guantate, ma diciamo esatto. Al dito, quindi sì. Al dito. Erano momenti completamente diversi da quelli di adesso, e noi inauguravamo questa mostra dove c'erano una selezione di pezzi. Qual era l'idea? Sì. Qual è stata la tua Ma in realtà questa è la figlia di una mostra che avevo fatto a Reggio Emilia nel 2018 e che si intitolava Sex and Revolution. Questa mostra è stata realizzata con la Fondazione Palazzo Magnani a Reggio Emilia, in un contesto molto bello, perché come sapete benissimo anche voi, l'Emilia Romagna è una regione piena di interesse per la sessualità, per l'erotismo e anche per la buona cucina, se posso aggiungere. Quindi c'è sempre stato un'accoglienza alla nostra proposta, al nostro progetto, veramente calorosissima. E infatti quei tre mesi lì sono stati molto positivi, con una grande affluenza di pubblico che proveniva da tutta la regione sostanzialmente, non solo da Reggio Emilia. Però io ho pensato che quella mostra aveva per me il vantaggio di rievocare i meravigliosi anni 70 dal punto di vista della rivoluzione sessuale che in tutto il mondo occidentale ha sconvolto i criteri, la morale vigente, le tradizioni e i modi in cui vivere la sessualità e l'erotismo. E questa rivoluzione, partita, come noi abbiamo raccontato, dagli Stati Uniti, è arrivata poi in Europa infine anche in Italia, con fenomeni interessantissimi che noi in quella mostra abbiamo raccontato, quindi non soltanto diciamo il versante sex, drag e rock and roll, che pure ha avuto un'incidenza notevole, ma anche diciamo proprio le pubblicazioni nella letteratura, i film nel cinema che hanno segnato quell'epoca in maniera indelebile, in maniera molto significativa, con delle trasgressioni che per i nostri genitori, i nostri nonni erano impensabili. Pensate soltanto a quello che è successo quando sugli schermi di tutto il mondo è uscito un film come Gola Profonda, che noi abbiamo raccontato chiaramente, no? Come un evento veramente epocale, oppure i primi nudi integrali su riviste patinate o meno, che però avevano una diffusione di massa. I primi giornali pornografici, le prime pubblicazioni anche in Italia, tipo Le Ore, Man, eccetera, eccetera. Da lì siamo partiti per fare una considerazione. Va bene, gli anni 70 sono stati meravigliosi da quel punto di vista, però oggi il panorama è cambiato radicalmente. Oggi c'è internet, oggi c'è la rete, quindi noi vogliamo fare volevamo fare, io volevo fare un nuovo progetto che partendo dagli anni 70 raccontasse l'oggi. L'oggi visto attraverso artisti, illustratori, scrittori, movimenti gay, movimenti eterosessuali, movimenti di liberazione della donna, tutti questi fenomeni che hanno segnato sì gli ultimi 40 anni, ma che oggi ci dicono anche delle cose nuove, diverse, magari anche contraddittorie, però noi non volevamo dare un giudizio, volevamo raccontare quello che sta succedendo con l'avvento della rete. È andata male perché dopo l'inaugurazione del San Valentino, così simpatica, e dopo ben 11 giorni in cui abbiamo registrato quasi 600 visitatori, di cui sottolineo veramente con gioia, gran parte giovani tra i 25 e i 35 anni, quindi netta maggioranza giovani, è arrivato un decreto regionale e governativo che ci ha detto l'8 marzo dovete chiudere. Dovete chiudere, noi abbiamo pensato dobbiamo chiudere, va bene. Per l'emergenza coronavirus, ma mai avremmo immaginato di arrivare fino a oggi con questa chiusura e con tutte le conseguenze anche economiche che questo ha comportato. Hai spiegato insomma di cosa si occupava la mostra, cosa voleva mostrare. Dal punto di vista proprio pratico dell'allestimento, ci vuoi raccontare un po' come hai fatto a testimoniare tutti questi avvenimenti, la rivoluzione sessuale e anche l'avvento di internet? Io mi ricordo delle cose divertentissime, quindi Sì. Beh, mi piacerebbe che ce le raccontassi. per esempio, adesso sono talmente tante le cose che non sarà facile fare una sintesi. Comunque, diciamo che uno dei pannelli che ha suscitato maggiore interesse è stato quello che metteva a confronto gli annunci erotici degli anni 70 sulle riviste come Men e gli annunci su internet dei giorni nostri. La gente sorrideva, si divertiva a fare questi confronti. Anche perché negli anni 70 non si potevano dare nomi e cognomi veri, quindi c'erano un sacco di giochi di parole, di pseudonimi, di sotterfugi che oggi ci fanno veramente sorridere, no? Però insomma il percorso espositivo diciamo ha due facce, ha quella documentaria per cui noi raccogliendo tantissime pubblicazioni di ieri e di oggi abbiamo mostrato come ancora la sessualità è oggetto di scritti, di studi, di ricerche, di grafica, di illustrazione, di fotografia a più livelli, ma poi abbiamo, diciamo, dedicato una parte importante, anche se avremmo voluto fare un po' di più, confesso ora, agli artisti contemporanei che si occupano in prima persona di sessualità, che raccontano le loro esperienze attraverso la fotografia, il video, i disegni, eccetera, eccetera. E questa seconda parte, secondo me, è stata quella più caratterizzante un po' il nostro progetto, perché va bene documentare quello che è successo ieri e oggi, però è stimolante vedere come artisti come voi e tanti altri vivono questo fenomeno straordinario di liberazione sessuale attraverso gli strumenti propri che ciascuno individua come migliori per esprimersi. Ecco, a questo proposito, Grazie intanto, perché grazie. non è che è Prego. una scelta che non sempre viene fatta, anzi di rado. Quindi Quale innanzitutto di occuparsi grazie di di sessualità? essere contemporanei. Allora, senti, appunto, ecco, tu così, con l'occhio del curatore anche, che sei andato a scandagliare, immagino un po' quello che è la situazione odierna, magari soprattutto qui da noi in Italia. Che cosa hai trovato? Com'è la Ma scena, tra virgolette, la situazione degli artisti che una si bella occupano di domanda. sessualità? È una bella domanda, perché tenete conto che abbiamo invitato artisti di varie città italiane e qualcuno anche straniero, ma con età anagrafiche e esperienze molto molto diverse. Cioè andiamo da una giovanissima fotografa 23enne a esperienze invece di persone che ormai sono già magari 20 anni o più che lavorano nel campo. È difficile fare una sintesi perché era molto eterogeneo il materiale. Quello che posso dire è che forse mi rimprovero un pochino a distanza, diciamo a ragion veduta, è che forse avremmo dovuto, ce l'hanno anche segnalato alcuni visitatori scrivendo nel libro dei commenti, avremmo potuto e dovuto osare un po' di più. Ma noi eravamo preoccupati del comune di Milano, perché non possiamo far finta che non siano loro i padroni di casa. Quindi certe piccoli freni che ci siamo autoimposti, ce li siamo autoimposti perché avevamo paura che in qualche modo poi si scatenasse una reazione da parte delle istituzioni. Se fossimo stati in uno spazio non comunale ci saremmo sentiti sicuramente molto più liberi di fare quello che avremmo voluto. Però alla fine, insomma, va bene anche così, cioè è stato comunque interessante. Ma tu, così a tuo istinto, cosa pensi che sia più mirato dalla censura? Cioè, cos'è che la censura colpisce? È una questione di centimetri di pelle? Che cos'è? No, no, no, no, no, ma per esempio a me è colpito tantissimo che un disegnatore bravissimo, italo-brasiliano, come Edoardo, che è Sissi ne pa un pornò, è stato censurato nella sua pubblicazione bellissima di disegni, cioè non stiamo parlando di chissà quali cose hardcore dal vivo in Piazza Duomo, stiamo parlando di disegni innocenti, ironici, simpaticissimi, che lui ha pubblicato su libro e poi per una mostra e che gli hanno chiuso la mostra, non gliel'hanno fatta fare. Quindi non è vero che adesso la censura è scomparsa, non è affatto vero, No, c'è ancora come. anzi, a me sembra una situazione più sovietica, in cui chiaramente se la fai fuori dal vaso vieni censurato e va bene, ma addirittura il 90% delle volte hai paura di farla fuori dal vaso e ti autocensuri, che è la Sì. parte più, forse più, come dire, che Sì. fa Certo, più riflettere, ecco. certo, certo. E quindi non so, io francamente non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo che in una fase storica come questa, in cui l'accesso su internet di qualunque documento porno, erotico, eccetera, eccetera, è libero, in realtà poi quando uno fa una mostra invece subisce tante censure o condizionamenti così forti. Purtroppo ne sappiamo qualcosa anche noi dopo tutto questo tempo. Sì. E quindi possiamo dire che è concettuale, cioè nel senso viene censurato il concetto, perché se mi Sì. censuri dei fumetti sono dei concetti che tu non puoi Certo. veicolare. Noi l'abbiamo notato anche su Instagram e altre piattaforme, che non è neanche la vulva o il capezzolo, perché alcuni vengono lasciati, altri vengono bannati. Alla fine abbiamo dedotto che vengono proprio perseguitate. Chi veicola un certo tipo di concetti, quindi è censura politica proprio, totale. Assolutamente, il nostro web designer che si è occupato di promozione su internet ha dovuto cambiare più volte il titolo della mostra effettivo, eccetera, eccetera, la campagna promozionale, perché la parola sex non viene accettata né su Facebook né su altre piattaforme. Beh, questa è Quindi, proprio censura, eh. sì. Allora io adesso ti voglio fare un'altra domanda, ma secondo te, questa è un po' più quasi intima, guarda, ma Sì. secondo te perché? A cosa stanno tutelando? Cioè, che cos'è che fa paura? Qual è il problema? Dov'è l'inghippo? Ma secondo me è quello che avevano già individuato alla fine dell'Ottocento i vari seguaci della scuola freudiana, cioè la sessualità libera o liberata per che dir si voglia, liberata è un termine già più impegnativo che userei con più prudenza, ma diciamo l'espressione libera della sessualità crea dei disagi, il famoso disagio della civiltà, cioè crea uno scombussolamento nell'ordine costituito, nelle leggi statali, nella convivenza civile, che scompagina tutto quello che invece è stato ordinato, organizzato, perché tutti dobbiamo stare buoni e tranquilli e stare solo con il nostro maritino, con la nostra mogliettina, guai se osiamo andare oltre certi confini e così via. Questa roba qui ormai, ripeto, è da più di 100 anni che c'è questo problema, che è stato analizzato con molta acume sin dai primordi di Freud. Decisamente siamo ancora lì. E come dar loro torto, peraltro, anch'io sarei preoccupato. Comunque, comunque, il comune di Milano, oltre a farci paura e a farti chiudere, immagino che abbia comunque, non so, ammortizzato la caduta, insomma, la chiusura con qualche intervento economico, sia È stato stato disposto. programmato un bando che stiamo aspettando da 10 giorni, ma non lo abbiamo ancora visto né letto, però è stato annunciato con tutta la solita fanfara, no? Un bando comunale per aiutare quelli che hanno avuto i danni nel campo culturale e artistico come noi, che però secondo me, io lo dico con molta franchezza, è una briciolina, perché è una briciolina nel deserto, nel senso che un granello di sabbia nel deserto, perché saranno messi a disposizione 2 milioni di euro per tutti quelli che hanno subito problemi, danni nel campo librario, editoriale, artistico, espositivo, cinematografico e teatrale. Quindi saremo, secondo me, 400 questuanti che chiederemo tutti un rimborso per i danni subiti. Quindi alla fine daranno, che ne so, una cifra modesta, perché dovranno contentare tanti tanti questuanti. Questo è il mio timore, poi io spero naturalmente di essere smentito, lo spero ardentemente. Spero anch'io, Per però ultimamente i soldi ora. non se ne sono ancora visti, insomma. No, Per ora non è. pacchi, per ora viaggerò dei gran pacchi vuoti. Guarda, io non so cosa dire. Io in questo momento ho solo il desiderio che davvero questo momento di stasi, di blocco, si esaurisca prima possibile e si possa tornare, se non proprio a fare quello che facevamo prima, perché ci vuole un po' di tempo, a vivere un pochino più serenamente. Cioè io francamente ho un po' perso la serenità, che per me è un ingrediente fondamentale, insieme alla sessualità. Cominciano tutte e due per essere, però. Cioè, sono due cose importanti per vivere meglio e abbiamo perso tutte e due, perché la serenità effettivamente non c'è stata in questi 2 mesi e mezzo, 3 di lockdown, e la sessualità è stata molto compressa e ridotta. Quindi è molto grave questa cosa, secondo me, è preoccupante. Cosa ne farai di quel che rimane della mostra? Hai un progetto? Cosa ne fai Sì, di no, quelle c'è belle una opere? buona notizia, c'è una buona notizia, perché uno degli artisti, non posso fare il nome per scaramanzia, uno degli artisti che abbiamo coinvolto in questo progetto ci ha ribadito quello che ci aveva detto quando ci siamo incontrati la prima volta, cioè che bella questa mostra, che bella, la vogliamo portare nella nostra città. e io sto sognando di rimettere insieme i cocci perché il vaso è rotto. E non è che una mostra non è come un film che uno prende il dischetto e lo proietta. La mostra, ricomporla, è un lavoraccio. Anche se diciamo, potremmo dire che abbiamo già fatto la metà, no, del lavoro, però rimane sempre tanto da fare. Però a me piacerebbe ri ri ritornare dagli stessi artisti, dagli stessi prestatori e rimettere insieme tutto il pacchetto con magari qualche variante, perché poi è bello anche cambiare, no? Aggiungere qualcosa e togliere qualcos'altro. Devi ampliare i contemporanei, ricordatelo. Certo, però sai, dipende anche dal budget, come al solito, eh? Comunque, insomma, io sarei felicissimo di riprendere la mostra in un'altra città e magari anche a Milano fra un anno, chi lo sa, non lo so, con varianti, eccetera, eccetera. Perché i poveri 500 rotti visitatori che l'hanno vista nei primi 11 giorni sono solo una piccola quota di quelli che sarebbero venuti a vederla. È chiaro, ce lo auguriamo anche noi e tra l'altro saremo lieti insomma, di raccogliere la notizia quando sarà ufficiale. Se è un bel posto, veniamo anche all'inaugurazione. Beh, ma quello lo do per scontato. Infatti. Cioè, l'inaugurazione è scontato. Io spero in qualcosa di più, cioè spero sempre che il vostro contributo sia bello, creativo, come è stato per Milano, e che soprattutto tutti insieme possiamo ritornare, come dicevo prima, a una bella serenità per tutti e a una sessualità bella, frizzante e vivace come era fino a poco tempo fa. Comunque c'è da dire un aneddoto sulla nostra inaugurazione, che io prima, dato che io ho diciamo, un rituale, no? Soprattutto in situazioni, magari non lo so, inaugurazioni, c'è un feticismo forse, mettiamola così, che vado e mi spoglio. E poi succede quel che succede, cioè o mi cacciano, o mi fotografano. E alla nostra inaugurazione sono arrivata invece super casta Sì, perché ricordo. io ero tutta contenta, che ho detto: ah, finalmente sono cresciuta, non vado lì a fare l'eccentrica, non vado lì a scaricare tutte le beghe del mio narcisismo sulla gente che lavora, quelli stanno facendo una roba seria e tu sei là che devi compensare le tue menate tirando fuori le tette, esibizionista di me. Arrivo e tu mi hai detto: ma come sei sobria? E gli ho Lo pensavo detto: veramente. oh mio Dio, cazzo! Stata una doccia di È realtà. stato bellissimo perché tu hai riconosciuto la mia parte, che è quella che stavo giudicando malamente, invece come la star che deve essere, e ti ho amato tantissimo. Quindi alla Grazie, prossima inaugurazione faccio questo e quello, giuro. grazie. Sì, ma io spero anche che ci saranno altre occasioni, non solo la prossima inaugurazione, perché con voi vorrei e con altri. Vorrei riprendere dopo l'estate i rapporti. Prima di tutto mi devo leccare le ferite e questo lo dedico l'estate a leccarmi le ferite. Ma da settembre voglio davvero riprendere i contatti con voi e con almeno altri 5-6 artisti o comunque contatti interessanti, perché non voglio perdervi e non voglio che ci sia soltanto una nuova possibile mostra. Voglio che diventiamo un pochino più amici, ci conosciamo meglio. Sì, noi ci siamo. beh, sì. l'aspetto umano è importante, non c'è Assolutamente. solo l'aspetto professionale. Ma io nel mio di lavoro è tutto aspetto umano, soprattutto un Certo. certo tipo di aspetto umano, cioè io mi devo divertire, devo godere, devo essere un momento di piacere, se no alla fine. Questo l'abbiamo capito. Grazie. Va bene, allora ti saluto, invitandoti a dare un'occhiata su Pornhub, Rosario Gagliardo, scritto Gallardo, Pornhub, adesso non so dove vanno gli slash, c'è il nostro ultimo cortometraggio che si intitola Voglio essere degna di te, papà. Così poi mi Bene. dici se ti è piaciuto, Sì, eh. volentieri. Ok. Un abbraccio e grazie. Un abbraccio anche a voi, grazie a Ciao. tutti. Grazie, Ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Benvenuti, questo è il salotto porno nerd della Tinca e questa è la quinta puntata e abbiamo come ospite niente po' di meno che mia sorella. Grazie, buonasera a tutti e soprattutto a voi. Gagliardoni. Allora, io purtroppo non ho avuto modo di vederla all'inaugurazione, però ho avuto modo di appunto andare a visitare la mostra. Sono entrata in questa ex fabbrica del vapore, Giuseppe. È stato veramente eccitante sin dal principio vedere il cartellone della mostra. Entrare dentro questo ambiente ed è stato molto particolare perché quando io sono entrata ho chiesto, insomma, ho detto che appunto facevo parte degli artisti che avevano partecipato alla mostra e quindi sono entrata come artista e è stato già lì, è molto molto molto emozionante. Già non mi aspettavo sinceramente che all'interno appunto sarebbe stata esposta una foto in cui c'ero anch'io. Essere accolta in questo modo è stato veramente esilarante. Per di più, appena mi sono voltata, praticamente tra le prime foto esposte ho subito visto le foto di Rosario Gallardo, tra cui la mia, che è una foto che ritrae noi sorelle, noi due sorelle. È una foto che risale un po' di tempo fa, ma comunque mi ricordo più o meno quando è stata scattata ed è stato veramente molto particolare rivederla e vederla in quell'ambito, insomma, sapere che è stata scelta, che siamo state scelte tutte e due insieme per essere esposte all'interno appunto del Sex and Pop. E poi ho girulato un po' la mostra, però comunque sarei stata delle ore lì a guardarci entrambe. Me la sono voluta vivere e godere in tutto e per tutto. Ho girato tutta la mostra, molto interessante. Un excursus in tutto quello che è stato il sesso da, insomma, dagli anni, penso, dai primi del Novecento, metà del Novecento in poi, e quindi è stata molto travolgente come situazione e c'ho ancora l'immagine impressa di quella foto. Tutti i giorni quasi ci penso spesso. Ti va di descriverla? Quando ci penso, quell'immagine stampata. Sì, eravamo io e te in effusioni, sdraiate, nude, che ci coccolavamo, che ci adulavamo, che ci amavamo a nostro modo. I nostri visi erano particolarmente coinvolti. E ricordo quel momento in cui sì, eravamo molto affiatate, molto rilassate, stavamo bene, mi sembra che era durante una vacanza, per cui anche quello faceva molto, ed è stato veramente un flashback, ecco, un salto all'indietro nel passato, particolare, veramente una sensazione particolare riviverlo. Ah, che effetto ti ha fatto essere vista in pubblico in una situazione di intimità con tua sorella, che per chi non ci conosce, preciso che noi siamo sorelle perché siamo cresciute nella stessa famiglia, quindi proprio trattate come sorelle, presentate come sorelle da un certo punto della nostra vita in poi, tipo, non lo so, che avevamo 8-9 anni, ma di sangue non siamo Non abbiamo fatto peccato, perché Dio è dalla nostra parte, perché non abbiamo legami di sangue, ma solo affettivi. Ma comunque siamo cresciute come sorelle, ci sentiamo sorelle, quindi che effetto ti ha fatto essere vista in pubblico, in intimità con tua sorella? Che poi, sempre per essere precisi, nella descrizione, diciamo che la nostra intimità descritta e narrata dalla fotografia racconta un momento in cui noi stavamo usando il cellulare per mandare dei messaggini, chattare durante una situazione un po' anche di intimità, però eravamo anche, come dire, concentrate verso anche un esterno. Porco Dio, è caduta la lì. Nude, una accanto all'altra, ci scambiavamo effusioni, probabilmente ci stavamo masturbando, credo, e forse era in seguito anche una cam, non lo so, nel frattempo di una cam, adesso non ricordo esattamente, mi ricordo che era stata scattata quella foto in un momento di grande intimità tra me e Stavamo te. chattando durante una cam con qualche ammiratore, quindi siamo Ho state già. immortalate mentre ci fumavamo una sigaretta stravaccate sul letto tra una zozzeria e l'altra e chattavamo, contrattavamo, commerciavamo con qualche nostro ammiratore via web. E le sue richieste. Compiacendoci di sventolarla e prezzolarla. Assolutamente, molto compiaciute e affiatate, direi. Sì, in Affiatate. questo. Sì, Allora, sì. ti va di raccontare, così per un ascoltatore che non ci conosce, chiaramente, come siamo arrivate. Adesso non voglio iniziare dall'infanzia, perché non lo so, forse è troppo. Però come siamo arrivate in qualche modo noi a condividere questa avventura di sessualità, esibizionismo, come la vogliamo chiamare, fare le star, fare le vamp, fare questo nostro percorso in cui condividiamo queste esperienze. Com'è successo? Perché io ho iniziato nel lontano 98 quando mi sono quando ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito e noi lì ce ne siamo un po' allontanate, poi ci siamo ribeccate dopo un po', quando avevamo già i figli più grandicelli che giocavano assieme, quindi da zie, da sorelle che sono anche zie, no? E piano piano abbiamo incominciato io ho incominciato a raccontarti cosa stavo facendo con Rosario Gagliardo, giusto? E tu eri Sì. molto lontana in quel momento, la prima volta che forse ci siamo più, non che io ti abbia mai tenuto dei segreti, però diciamo, sei partita sicuramente da Sì, ero molto piuttosto lontano. estranea, sì, Se ti va estranea di alla raccontare quello che ti situazione. ricordi. Ma io quello che mi ricordo è che noi alla fine un'indole l'abbiamo sempre avuta. Forse io sì, ci ho messo molto più tempo ad agguantarla, a capirla, a comprenderla, ad accettarla. Quindi quando tu mi parlasti dei tuoi progetti di Rosario Gallardo diciamo, alla sua nascita, io ero in un mondo del tutto opposto, si può dire così, e quasi non comprendevo, non ho compreso finché non ho toccato con mano, diciamo, qual era veramente la cosa, la situazione che tu avevi creato intorno a te, tu e tuo marito avevate creato questa incredibile figura che poi mi è stata molto di ispirazione, ovviamente tu lo sai meglio di me, siete stati i miei promotori, diciamo, se non fosse stato per voi, non avrei probabilmente scoperto, riscoperto questa me stessa, questo mio lato fondamentale del carattere, no? questa mia libertà di espressione sessuale, questa mia voglia della ricerca, del desiderio, della mia sessualità, no? Proprio come individuo, personalmente parlando, poi poterlo anche condividere con altri, questa è la mia passione, come non voglio proprio definirmi una sex worker, però insomma, perché ci lavoricchio in un certo senso, però sono ancora alle prime armi. Però comunque sì, il sesso mi è sempre piaciuto e mi piace farlo senza limiti, assolutamente. Si pone già troppi limiti nella propria vita. Normalmente è quello, penso sia una sfaccettatura che non va assolutamente lì, come dire, non vanno posti dei limiti, bisogna anzi lasciarsi andare e godersela e essere più se stessi possibile ed è quello che io ho riscontrato in questi ultimi anni, la mia vera me stessa. Che per tanti anni invece avevo dovuto un po' eclissare e questo mi è dispiaciuto, però come dico sempre, meglio tardi che mai. Che Rosario Gallardo è stato tanto per me, abbiamo fatto anche le prime cam, cioè ho fatto le prime cam con voi, anche le prime registrazioni oltre che foto proprio, mi ricordo sì, forse proprio all'inizio. E poi piano piano, gradualmente, è tutto però, diciamo che si è, il mondo Gallardo per me si è aperto quando voi mi avete insegnato a squirtare. Non so se ti ricordi. E Mi questo ricordo. non è successo tanto, tanto tempo fa, forse si parla di 3 anni fa, o più di 3 anni fa. E da lì per me è stata una sorta di emancipazione proprio personale, con tutta una serie di soddisfazioni proprio personali. Strano dire di poterlo collegare a una funzione, diciamo, più che altro fisica, come io la vedo, no? Perché lo squirt secondo me è proprio un'eiaculazione, è un atto proprio di liberazione, no? Dal punto di vista ormonale e fisico, più che emotivo, almeno io per quello che lo posso vivere, è proprio così, è il mio organismo che bam, ha bisogno e via, getta fuori quello che deve gettare fuori. La mente non c'entra proprio un cavolo, cioè non mi condiziona assolutamente. E da lì in poi ho avuto un'apertura di un mondo che prima era completamente per me offuscato, cioè non avevo proprio idea. Anzi, quando ti vedevo squirtare, sia nelle cam, nelle tue performance, chiedevo: ma cos'è? Cioè, non riuscivo ad arrivarci, finché non l'ho provato. E avete lavorato bene, avete lavorato abbastanza, avete lavorato bene, e da allora boh, mi sono proprio aperta a tutto spiano, a 360 gradi, e questo lo hanno notato ovviamente anche gli uomini. È cambiato proprio il mio modo d'essere, il mio modo di mostrarmi, di rapportarmi verso gli uomini. La mia sicurezza proprio sia fisica che psicologica, no? Nell'affrontare anche proprio un discorso relativo al sesso, a un incontro con un partner, anche che cioè, fosse occasionale. È stato tutto una catena, una successione di cose che sono venute da sé in una maniera così naturale. Così rapida che quasi a pensarci, no, dico, ma non ci posso credere, non ci posso credere, sono veramente Allora, colpita. proviamo un attimino un paio di episodi così che il nostro ascoltatore possa gioire con noi di questi ricordi così, profondi ma anche divertenti. Allora, la sera che abbiamo dedicato, la prima volta che abbiamo dedicato del tempo all'insegnamento dello squirting, io ti dico cosa mi Me la ricordo. ricordo. Eravamo andate al Vomero, che è un quartiere di Napoli, che è il quartiere dove noi siamo nate e cresciute, quindi è il nostro quartiere casa. E eravamo lì tutte belle agghindate, io e te, inizialmente da sole, a prendere l'aperitivo, giusto? Abbiamo Giusto. fatto, ci siamo corteggiate come se ci cercassimo di sedurre, nonostante il fatto che ci conosciamo da quasi tutta la vita e che ci siamo tirate i capelli per rubarci probabilmente calzini, mutande, scarpe per 2/3 e Bambole, bambole e Barbie. Barbie. Quindi, nonostante il fatto che ci siamo prese con le abbarbiate in testa durante la nostra infanzia, ci siamo sedotte reciprocamente quella sera e poi io ti ho portata allo studio dei nostri genitori, Sì, che era quante vuoto. cose ha visto quello studio, direi, nell'arco della nostra vita. E ti ho Troppo detto, lungo ecco, da raccontare. e ti ho detto qualcosa tipo: se mia sorella ti voglio fare questo regalo, l'avrò messa giù su questo tono, secondo me, se mi riconosco bene. Ti ricordi come te l'ho messa Sì, giù? mi hai illustrato un po' il tutto, però anche lì in quel caso hai tirato fuori la Rosario Gallardo che sei, cioè ci hai saputo assolutamente fare, anche se io lì per lì, appunto, ripeto, ero completamente ignara di tutto, cosa sarebbe successo, cosa sarebbe stato, però sei riuscita a far sì che io mi lasciassi trasportare dagli eventi. Che cos'è secondo te l'ingrediente segreto per passare da che cazzo è sto squirt a ah che figata mi ha cambiato la vita? Ti ripeto, è proprio una cosa, per me è stata proprio una cosa fisica, cioè è come se, non lo so, qualcosa a livello fisico fosse proprio, avessi un blocco. E la questione è tutta concentrata nel mio blocco fisico. Era proprio una necessità che io non avevo mai esplorato, vissuto. E quel blocco fisico condizionava anche la mia mente e mi creava a mia volta un blocco mentale. Quindi dal momento in cui io ho potuto liberarmi fisicamente di quel blocco, mi sono liberata anche di quelli, tra virgolette, preconcetti, no? Comunque dubbi che avevo sulla cosa che per me era del tutto boh, sconosciuta. È stata proprio una cosa fisica, fisica, assolutamente fisica. Però parte sicuramente dalla mente, perché tutte le persone che fanno un po' di esplorazione sulla sessualità sanno che poi tutto quello che succede succede nella mente, anche se parte dal fisico riguardo lo squirt, ma per arrivare allo squirt noi siamo partiti dalla mente e ti ricordo io da dove. Eravamo a Natale, mentre l'esperienza squirting eravamo d'estate, mi ricordo tutte belle allegre al caldo, del sole, del luglio napoletano. Intacchettate. Intacchettate, mentre invece un po' prima, forse il Natale prima, sempre a Napoli, che è il nostro covo di Marachelle, cara, Assolutamente. io ti stavo, non so perché, tartassando, perché boh, ti volevo tirare in mezzo, perché mi ricordo che erano ormai anni che facevamo vacanze insieme in cui ero tutta nuda e arrapata e tu facevi Santa Maria Goretti, tutti quei costumi ascellari, e io dicevo, ma no, ma questa chi è? Ma non è mia sorella, La che disconosco. noia. E allora quel Natale, non so da dove partì il discorso, e se ti ricordi anche tu, io ti convinsi a prendere da me 50 euro per sfilarti il reggiseno e dargli fuoco nel caminetto in quel momento insieme a me e Bruno. Te lo ricordi? Me lo ricordo, sì. Me lo ricordo, mi ricordo addirittura il colore di quel reggiseno e quanto ci tenessi a quel reggiseno. Me E l'avevi detto, per questo poi. che te l'ho casciato. Ti avevo detto che però il valore di quello che stavamo iniziando a fare era più alto del valore del reggiseno e per dimostrarti che avevo fede in ciò ti ho dato i cash. Tu ti sei tolto il reggiseno ridendo, hai preso i cash, perché tra zoccole ci si intende, e hai dato fuoco al tuo reggiseno. E io dico che lì è stato veramente il primo gesto. Esorcizzato i miei demoni lì, si può dire così. Cavolo, è stato bellissimo, effettivamente. E adesso te ne dico una, adesso convivo senza reggiseno. E anzi, per me è proprio una costrizione. Solo pensiero di aprire il cassetto e guardarlo, già sto male. Cioè, Non lo pensa usi cosa più. cazzo, no, pensa cosa cazzo mi hai fatto. Ah. Adesso vivo tutto con una somma libertà, proprio come quando mi sono liberata di quel reggiseno, mi sono liberata di tutte quelle che erano le mie costrizioni mentali, no? Tutti quei miei problemi, seghe mentali che mi facevo, ma se faccio questa cosa non la faccio, adesso la faccio, punto e basta. Quando mi sono ritrovata in casa, in quarantena, chiusa in questa clausura forzata, ho pensato che non dovevo impazzire e dovevo tirare fuori un attimino quelli che sono i miei artigli da gatta. L'eros è una cosa che mi coinvolge tantissimo, mi sta dando grandi emozioni. Il sesso, ho scoperto anche tanto della pornografia, grazie a voi, e quindi ho detto perché non provare a scrivere qualcosa, tipo dei racconti. Questi racconti un po' basati su quelle che sono state le mie esperienze reali e un po' basati su quelle che erano le mie fantasie, di come potevano evolversi queste esperienze, no? E poi appunto ho deciso di unire alla scrittura quella era la mia capacità che ho inserito nel mio canale, ho aperto un canale così per poter cominciare a vedere se avevano un riscontro positivo e così è stato. Dal primo adesso ne ho scritti sette e via dicendo, spero insomma di continuare su questa strada. Ti piace leggere racconti erotici, fare arrapare gli uomini? Questa cosa di fare arrapare gli uomini pensi che sia in qualche modo negativa, criticabile? Io il mio lo intendo come un lavoro, io dico sempre che faccio un lavoro socialmente utile, perché alla fine io ho avuto tramite riscontro ed ero comunque, avevo l'intenzione di regalare a chi ascoltava i miei racconti quei minuti proprio di pace, di benessere e di arrapamento totale e di liberazione. Quindi durante appunto la quarantena, quando non c'era la possibilità di potersi incontrare, ho pensato a chi come me aveva questa problematica e doveva in qualche modo trovare uno spunto per superarla. E mentre io li scrivevo, ero la prima che mi arrapavo, ero la prima che mi eccitavo. Che poi avevo bisogno di, insomma, concludere il tutto masturbandomi, ovviamente. E visto l'effetto che facevano a me mentre li scrivevo, nonostante fossero delle mie creature e venissero dalla mia mente, ho pensato che potessero avere lo stesso effetto anche su chi li ascoltava. E così è stato, infatti. E ho potuto regalare appunto a chi ha avuto piacere di ascoltarli un po' di beneficio, come dire. Bene, allora grazie per aver condiviso con gli ascoltatori, io già sapevo tutto, con gli ascoltatori tutte queste intimerie conturbanti, intimerie ai limiti, probabilmente, e forse anche un po' oltre di quello che è il luogo comune. Che dire, ti andrebbe di dire due parole alle nostre ascoltatrici, quelle più pudiche, quelle che magari in cuor loro già sanno che forse gli farebbe bene sbottonarsi un po', però ci hanno paura, non lo so, magari di quello di cui avevi paura tu quando tiravi su il bavero della camicia per non far vedere le pieghe del seno. Se c'è qualcosa che senti di voler dire a chi come te in passato si è un po' chiuso e ha paura di realizzarsi in maniera più espressa nella sua sessualità. Io il mio consiglio che do è di esplorare se stesse, di imparare a volersi bene per come siamo, perché più ci vogliamo, più ci accettiamo, più gli altri ovviamente vedono in noi qualcosa di bello. Io più noi ci accettiamo, più a loro volta gli altri ovviamente possono capire chi siamo veramente. Più mostriamo noi stesse e più agevoliamo gli altri a rapportarsi verso di noi. Se noi poniamo quel muro e lo poniamo per primo nella nostra testa, questa cosa ovviamente blocca tutto quello che è ciò che ci circonda e non, assolutamente non dà nessun genere di soddisfazione nella vita essere così, assolutamente. Continuo a ribadire che essere se stessi è la cosa più naturale, deve essere la cosa più naturale ed è la cosa migliore che un essere umano possa fare per se stesso e anche per gli altri. Ultima cosa che ti chiedo per quegli ascoltatori che, avendo sentito che noi abbiamo un rapporto di sorellanza, che siamo cresciute insieme da piccole, come sorelle, si sono sentiti in qualche modo minacciati dallo spettro dell'incesto come tabù, cosa gli diresti? Gli direi che non c'è niente di incestuoso. Tra di noi c'è solo un grande amore e che lo manifestiamo a modo nostro e che lo manifestiamo con una tale naturalezza che non si può provare vedere l'oscenità. Cioè io non l'ho mai sentita tra di noi. Questo lo posso dire con certezza, né dalla prima volta né l'ultima volta, tra di noi c'è sempre stato un enorme coinvolgimento. E ti dico un'altra cosa, per fortuna, coloro con cui io ho potuto parlare, di quelle che sono le nostre, di quella che è la nostra unione totale, l'hanno tutti apprezzata tantissimo e nessuno è stato discriminatorio, anzi. Molti si eccitano solo all'idea di poterci vedere insieme. E noi siamo insieme in mostra, Sex and Pop appena smantellata, ma che forse verrà ricostituita, e siamo insieme anche sul calendario Gagliardo, che non è stato potuto vendere completamente perché c'è stato a un certo punto un po' di maretta, ma Compratelo, compratelo! esistono ancora delle copie, anche se siamo a metà dell'anno, e poi saremo visibili spesso e volentieri anche in altri contesti fotografici e video, perché tanto noi non ci abbiamo un caso da fare e quando abbiamo voglia ce la lecchiamo. Bellissimo! Oh, appena posso, vengo a farmela leccare, vedi come te lo dico! Bidè, bidè, te l'ho promesso, stavolta te la Appena lecco. sturano le frontiere, Sturate le frontiere perché noi ce la dobbiamo leccare. ragazzi! Avete capito? Abbiamo gli arretrati, Abbiamo gli cazzo, arretrati e da con questo grido recuperare. di sorellanza, assolutamente chiaro ed inequivocabile, ti ringrazio Grazie a te e a presto. Ah no, e ci aspetta, dai per favore i tuoi indirizzi Telegram per il tuo canale o se hai anche altri indirizzi dove metti le tue cose, fai il tuo piccolo spot. Allora, io sono per tutti, sono Mica Micia Micia, il mio canale è Racconti della Micia, ho un canale privato, purtroppo adesso vedrò di renderlo pubblico, così sarà più facile accedervi e niente, vi aspetto tutti quanti per ascoltare i miei futuri e passati racconti. Ho anche un gruppo di discussione aperto da poco. E piano piano elaborando un po' quello che è stato il mio progetto iniziale, vediamo, magari creerò il mio Patreon e riuscirò anche a guadagnare qualcosina in più, che diciamo, Che a farli noi fruttare. non siamo moraliste, non ci offendiamo quando ci pagate. https://t.me/racconti della micia Telegram. Era il mese di maggio, la primavera stava per volgere al termine, con i suoi colori e i suoi profumi. Insieme al mio amico avevamo organizzato una camminata in montagna per quel fine settimana e precisamente in Alto Adige, nel sud Tirolo. Camminare in mezzo alla natura, tra vecchie mulattiere, con ai lati distese di prati verdi con tonalità differenti e torrenti d'acqua fresca che facevano da colonna sonora al nostro viaggio, ci facevano sentire parte di quella natura incontaminata. E mentre camminavamo, diretti al rifugio dove avremmo trascorso la notte, ogni tanto facevamo una sosta per rifocillarci e godere di quel luogo, in quanto avremmo impiegato diverse ore prima di raggiungere la nostra meta. Una volta arrivati al rifugio, completamente immerso nel silenzio di quei boschi, adornato tutt'intorno da centinaia di specie di piante e fiori di ogni colore e forma, stanchi, morti, ma soddisfatti, ci trovammo di fronte proprio alla proprietaria di quell'incantevole posticino, una donna sulla quarantina, dai modi garbati e con uno sguardo così profondo da lasciare il segno, che con estrema cordialità ci accolse con un caloroso benvenuto e si presentò appena prima di informarci, con un sorrisetto compiaciuto e anche piuttosto malizioso, che quella notte saremmo stati gli unici ospiti del suo piccolo rifugio. E vista la condizione un po' affaticata in cui eravamo, ci offrì subito una buona e dissetante bevanda a base di menta e poi ci accompagnò nella nostra camera. A quel punto, a me ed elle, non restava che disfarci dei nostri pochi effetti personali e a turno rilassarci con una bella doccia calda. Ma nel frattempo entrambi non potemmo fare altro che continuare a parlare di quella donna, M, e di quanto fosse magnetica nel modo di parlare, e nel lanciare occhiate ammiccanti. Indossava dei calzoncini di jeans attillati e una maglietta aderente dove si intravedevano i suoi capezzoli turgidi, e non nego che entrambi non stavamo più nella pelle all'idea di andare a cenare per essere serviti da quella bellissima padrona. E presi dall'entusiasmo, neanche un'ora dopo lasciammo la stanza per raggiungerla. Notammo subito che si era cambiata. Ora indossava una minigonna di pelle nera e un top aderente che faceva risaltare ancora di più le sue forme. Ci guardava entrambi e i suoi profondi occhi rimbalzavano come fossero una pallina da ping pong, prima ad uno e poi all'altro. Dopo averci portato un ottimo antipasto misto e un primo piatto, accompagnati da un buon vino locale, ci sentimmo subito più appagati e rigenerati. Ma nonostante tutto quel genuino e gustoso cibo, ciò che aveva attirato maggiormente la nostra attenzione fu il profumo e l'immagine della sua pelle liscia e leggermente colorita. E lei, esperta e abile, aveva perfettamente capito che ormai ci aveva letteralmente stregati. Ad un tratto Elle, forse distrattamente, fece cadere per terra una forchetta e M, senza esitare un attimo, si chinò per raccoglierla e in quel preciso istante notò che il cazzo di lui stava praticamente esplodendo nei pantaloni e senza alcun cenno di esitazione allungò la mano sotto il tavolo e cominciò a tastarglielo e con l'altra, quasi contemporaneamente, prese anche il mio, giusto per non creare imbarazzo a nessuno. Si capiva che le cose le piaceva. Quella sua espressione soddisfatta non lasciava dubbi, come una bambina che poteva finalmente giocare con le sue bambole preferite. Rapidamente slacciò la patta dei pantaloni e prese a segare entrambi, con ritmo deciso e maestria. Noi eravamo increduli, sembrava il copione di un film hard, invece era la realtà. Ad un tratto alzò lo sguardo e mordicchiandosi le labbra, quasi come volerci stigare ancora, ci disse che per quella sera sarebbe stata proprio lei il nostro dessert, poiché sin da subito aveva captato quale e quanto fosse grande il nostro desiderio. A turno iniziò a farci un pompino, a dir poco da urlo, mentre succhiava il mio cazzo, segava Elle, e quando fummo cotti a puntino, si fece posto sul tavolo. Alzò la minigonna, mostrando il perizoma turchese che si intravedeva essere già bagnato dai suoi liquidi, e dopo poco, presi dalla bramosia e dalla totale eccitazione, ci trovammo tutti e tre completamente nudi. Si sdraiò completamente a pancia in giù, alzò leggermente il culo, allargando le gambe verso di me, e sporgendosi dal lato opposto, iniziò a passarsi la lingua intorno alla bocca, come a farci intendere tutto ciò che voleva. Era bella nella sua naturalezza e nei suoi movimenti, con un cazzo in culo, l'altro in bocca, cercava di stigarci sempre di più, fino a farci raggiungere l'orgasmo, riempiendola di abbondante e smaniosa sborra. E poi, a turno, contribuimmo al suo piacere, leccandole affannosamente, ma con il dovuto riguardo, tutti i pochi, perché quello doveva essere un godimento completo. Finché lei non cominciò, alternando lussuriosi mugolii a grida di estasi, e venne, e con una incredibile squirtata, finalmente mi dissetò. E ora che ci penso, di tutta quell'affascinante avventura, è proprio il sapore dei suoi umori che ricordo con più nostalgia. Una splendida esperienza trascorsa insieme, con una perfetta sintonia e complicità, e il suo sguardo penetrante, insieme a quella sinfonia dei torrenti che nel silenzio di quella notte facevano da sottofondo musicale, resteranno per sempre un ricordo indelebile. Tinka!